Incontri di Gianfranco Fabi. Con le note molto moderne di questa Ruiz Funky Dad iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera all'ospite di questa sera, a cui chiedo di presentarsi perché deve rispondere alla domanda: Ruiz Funky Dad? Funky Dude. Funky Dude nella sua carriera artistica è un musicista che ogni tanto scrive anche canzoni, suona chitarra e basso. Nella vita professionale è un banchiere, Stefano Rossi. Cioè... Stefano Rossi, quindi è lei. Buonasera, buonasera Stefano Rossi. Buonasera. Grazie di essere con noi, che però oltre ad essere banchiere è anche musicista, cantante, suonatore di chitarra. Per diletto, esatto. Ha prodotto un disco, questo disco. Possiamo forse sentirne un altro piccolo pezzettino da parte della regia per far capire che tipo di musica è? It's my life, it's my life, it's my life. La vita per un banchiere, la vita forse complessa, forse piena di tensione anche, allora rifugiarsi un po' nella musica può essere un modo... Aiuta, un modo forse di evadere, ma anche di trovare qualcosa di positivo, trovare anche delle amicizie, è un complesso che sta suonando. È solo... Qui siamo due musicisti che abbiamo strutturato questo brano e l'abbiamo realizzato, quindi ci sono parecchi strumenti, però come spesso si fa in studio, si incidono diverse parti, una dopo l'altra, quindi si parte da una parte ritmica, poi c'è il basso, le chitarre, le tastiere. Io suono le chitarre e i bassi e il mio amico Alberto Benati suona le tastiere. Ho capito, quindi Stefano Rossi, dicevamo banchiere, amministratore delegato di una banca privata che è la Rothschild. Esatto, la Edmond de Rothschild, è una, noi siamo in Italia... la banca che rappresenta il gruppo Edmond de Rothschild, abbiamo la filiale italiana e la SGR, Società di Gestione del Risparmio. Edmond de Rothschild è un nome, direi, storico nel campo della finanza, mi pare che sono sette generazioni di banchieri, iniziando dalla fine del Settecento, banchieri dei re, delle regine, banchieri che hanno fatto la loro fortuna sotto Napoleone, anche per le sconfitte di Napoleone, grazie a certe informazioni riservate che avevano, banchieri che hanno segnato un po' la storia d'Europa. È un nome importante, ma anche pesante. È un nome importante, noi abbiamo la fortuna e l'onore di rappresentare in Italia le attività dell'Edmond de Rothschild. Come ha detto lei, nel corso delle generazioni si sono succedute varie generazioni. Ancora oggi la famiglia è proprietaria della banca e la banca, direi, è la più grande banca privata europea che si occupa di gestione del risparmio delle famiglie, quindi... private banking, come si dice ai tempi nostri, e asset management. Ecco, quindi un mestiere abbastanza complicato, soprattutto in una fase come questa. Lei ha un'esperienza in banca, non solo in Rothschild, da molto tempo. Da quanti anni fa? Ma io dunque ho lavorato per 18 anni per il gruppo UBS, occupandomi di investment bank. Sono a Edmond de Rothschild da 8 anni. E quindi insomma tutta la mia carriera l'ho fatta nella finanza, sempre occupandomi di investimenti. Com'è cambiato il mondo della finanza rispetto a 25-30 anni fa? Beh, è cambiato tantissimo. Mi ricordo il primo lavoro che ho fatto a Londra, era appena successo il Big Bang, quindi non c'era più la borsa gridata, ma c'era diciamo, le banche di investimento che stavano prendendo piede per appunto fare quello che poi dopo si sarebbe sviluppato fino ai giorni nostri, cioè quindi un mercato moderno, un mercato telematico. Cambiata tanto, ma sostanzialmente non sono cambiate le dinamiche sottostanti nel corso anche dei secoli. Adesso voglio fare un riferimento così alla storia, ma credo che la famiglia Rothschild, se ha saputo interpretare nelle varie generazioni, nei vari passaggi, il mestiere di banchieri, è perché sostanzialmente hanno sempre avuto la fiducia dei propri clienti. Sembra una cosa banale, però credo che il nostro mestiere ancora oggi assolutamente si deve basare sulla fiducia che un risparmiatore, un cliente ha nella propria banca. Certo, però comunque la banca opera sul mercato, un mercato che è diventato più complesso rispetto al passato, un mercato che è diventato anche più speculativo, forse anche in senso non solo positivo. Speculare vuol dire guardare in avanti, può essere un'attività certamente positiva se si riescono a prevedere gli avvenimenti, però la speculazione fine a se stessa mette la finanza in una cattiva luce. È verissimo, e infatti questo è uno dei motivi per cui io ho lasciato le grandi investment bank globali e mi sono appassionato e direi negli ultimi anni ho lavorato fortemente insieme con il mio team per sviluppare questo business dell'Edmond de Rothschild, perché è un business, se vogliamo, complicato ma più semplice, nel senso noi siamo una banca che non fa investimenti in conto proprio. Non fa vendite di prodotti che non compreremo per noi stessi, sembra, diciamo, uno spot così gratuito, però è la verità. Noi siamo specializzati nella gestione patrimoniale in titoli Ecco, che. cioè sono molte altre come voi, non si tratta di fare una pubblicità particolare, si tratta di vedere un po' un settore come sta funzionando. Peraltro Radio 24 ne parliamo spesso di questi settori, Certo. anche in trasmissioni specializzate. Certo. Beh, noi in realtà non abbiamo l'ambizione di saper fare bene tante cose. Cerchiamo di fare bene delle cose che servono diciamo, ai nostri clienti per trasmettere il patrimonio alle future generazioni. Ecco, com'è il cliente medio italiano, come si differenzia rispetto ad altri paesi come la Gran Bretagna o la Francia, dove voi operate molto? Questa è una domanda interessante. Il cliente medio italiano, venendo da una storia di obbligazioni e quindi direi di bot, Di titoli di di titoli Stato. di Stato, sostanzialmente più prudente, tranne poi invece per proprie scelte o decisioni a volte anche un po' guidate così non tanto dal raziocinio, invece si butta in scorribande anche un po' pericolose. C'è molto fai da te, C'è forse. molto fai da te. Il fai da te va benissimo nel momento in cui uno ha le capacità di documentarsi, però, come sappiamo, il mercato è talmente complicato, talmente a volte anche direi poco trasparente, per cui si rischia di incorrere in incidenti di percorso. Il cliente francese tipicamente ha un peso in azioni più alto di quello Cioè italiano. rischia di più. Non solo, ma ci sono anche degli incentivi fiscali che permettono, diciamo che sono molto punitivi se uno fa della speculazione a breve termine, compravendite a breve termine, da un punto di vista fiscale costa tanto, mentre invece se ha delle posizioni in azioni più prolungate nel tempo ha dei vantaggi fiscali. Ecco, questo in Italia non c'è perché tutto viene equiparato da un punto di vista di capital gain, per cui. Ecco, questo è un problema certamente per gli investitori italiani, il rapporto col fisco è certamente un rapporto complesso che va gestito. Incontri. Sono le 5, il giorno sembra non finire mai. Il tempo vola solo se sei fuori di qui. Telefono, SMS, Facebook, email, guarda tutto, leggi tutto, si sa mai, si sa mai. E cosa ancora con la voce, le note, la chitarra di Stefano Rossi in questa Louis Funky Dude. Riprendiamo il nostro incontro di questa sera. Stefano Rossi, l'autore e l'interprete di questa canzone, ma è anche amministratore delegato di Banca Rothschild, è qui sia come musicista sia come banchiere. Abbiamo parlato un po' di musica e un po' di banche nella prima parte, stavamo appunto descrivendo un po' la figura dell'investitore, le differenze tra l'Italia, la Francia, la Gran Bretagna. In Italia il peso del fisco si fa sentire, però da una parte il risparmio amministrato almeno è una, non dico una zona franca perché paga comunque le imposte, però comunque è una zona che, in cui le complicazioni spettano ai banchieri più che ai risparmiatori. Sì, noi cerchiamo di aiutare i nostri clienti nel così di vincolarsi tra tutte queste potenziali offerte, quindi è chiaro che da una parte abbiamo la nostra gestione, che significa portafogli dati in delega, quindi il cliente da si fida del gestore. Noi abbiamo un SGR con 8 gestori proprio specializzati in questo, e altrimenti abbiamo anche, per quello che riguarda la componente amministrata, un servizio di advisory, cioè cerchiamo di guidare. Poi chiaramente la decisione finale rimane nelle mani del cliente. Ecco, in questo senso mi diceva, i francesi hanno qualche facilitazione in più se investono al medio termine sull'azionario, l'Italia fa sentire, in fondo lo Stato gioca a favore di se stesso, ha dei privilegi nel tassare poco i titoli di Stato. Eh beh, questo lo sappiamo, sia per quanto riguarda i capital gain o le cedole, ma anche per quello che riguarda ad esempio il trasferimento di titoli di Stato agli eredi. Ecco, in questa prospettiva l'Italia favorisce un po' poco la trasmissione del denaro verso l'economia reale, verso le azioni, verso la borsa. È ancora un mercato un po' piccolo rispetto agli altri paesi, quello italiano. Sì, purtroppo secondo me è un problema. È un problema che andrebbe affrontato, ma anche in fretta, perché come vediamo molte aziende di medie dimensioni, per trovare nuovi sbocchi, trovare nuovi capitali, o si vendono a gruppi più grandi, gruppi globali che arrivano in Italia e quando trovano un buon marchio, un buon business, comprano, oppure faticano appunto nel così trovare capitali per potersi espandere basandosi sulle proprie forze. E, è anche vero che non c'è una vera e propria in Italia cultura del venture capital, cioè in America molto spesso ci sono investitori specializzati che abbiamo visto, insomma, le storie, poi quelle di successo delle aziende della New Economy, certo, sono oggi dei colossi globali, però magari 10 o 15 anni fa sono partiti da un garage piuttosto che da una startup. Anche nel caso delle startup, da un punto di vista di incentivi, non sono sufficienti secondo me, perché poi quando c'è una startup è chiaro che su 10 investimenti o 20 investimenti magari ne va bene uno e gli altri 19 vanno male. Per cui andrebbe fatto qualche cosa per far sì che naturalmente nell'ambito poi dell'onestà intellettuale e operativa, però qualcosa che possa facilitare queste start-up a svilupparsi. Ecco, come mai sul fronte finanziario l'Italia è restata indietro, mentre su un fronte così imprenditoriale c'è tanta iniziativa, tanta creatività, l'Italia ha inventato i distretti industriali, l'Italia ha fatto grandi cose con le piccole e medie imprese familiari, ma poi per fare il salto verso una finanza che sia appunto a sostegno delle imprese, una borsa che sia più ampia, in cui le imprese possono trovare accoglienza, forse negli ultimi tempi si parla più di delisting che di nuove quotazioni. Come mai l'Italia è ferma su questo fronte? Ma non c'è secondo me solo un motivo, vanno ricercati in varie direzioni le situazioni. Una cosa che mi viene in mente, che però è la stessa che alla fine uno dice da tanti anni ma niente viene fatto, è che da un punto di vista di fondi pensione in Italia il risparmio che viene canalizzato dai fondi pensione nella economia reale Non c'è. È stato fatto un salto in avanti, ma poi ci si è fermati. È stato fatto un piccolo passo, ma poi è stato tutto bloccato perché alla fine non è stato dato un sufficiente incentivo fiscale, ma neanche è stata fatta una sufficiente pubblicità alla costruzione di una pensione alternativa che reinveste questi soldi nell'economia reale. a lungo termine, perché quando uno inizia la sua carriera lavorativa quando ha, non so, 25-26 anni, deve pensare per forza di cose a 30-35 e anche di più, perché vediamo che l'età pensionabile viene comunque sempre e comunque alzata ogni volta di più. Però nello stesso momento si vive anche più a lungo, quindi è anche giusto quello. Sicuramente, però nello stesso momento non vengono dati degli incentivi sufficienti per dire costruisciti una pensione alternativa che in qualche modo ti garantirà qualche cosa al di là di quello che è il TFR o quello che è lo Stato. E quindi in Italia, secondo me, questo è uno dei motivi. Per quello che riguarda le risorse reali da immettere nell'economia reale, anche un'altra cosa che mi viene in mente è che purtroppo le società di gestione del risparmio, quindi italiane, che appartengono tutte alle grandi banche, pur essendoci tanto risparmio in Italia da gestire, non hanno mai fatto una politica lungimirante di creare una cultura dell'investimento, non soltanto diciamo nelle capacità gestoriali, che pur sono presenti, ci sono degli ottimi gestori in Italia, però alla fine la distribuzione di questi fondi è sempre lasciata o in mano alle banche o in mano È un sistema molto bancocentrico. È un sistema bancocentrico. Ci sono alcune poche realtà indipendenti che però per fortuna negli ultimi anni hanno preso piede, e credo anche perché il cliente finale così si è un po' disaffezionato dai grandi nomi bancari, mentre si fida di più in campo di investimenti di diciamo attori specializzati. Attori che non abbiano conflitti di interesse rispetto al sistema bancario. È molto vero. Ecco, mi vorrebbe dire che bisogna rimettersi a correre su questo fronte, proprio magari guardando a uno dei suoi hobby, che è di mettersi a correre. Mi sembra che oltre che il banchiere e il musicista, Stefano Rossi abbia un passato da atleta. Un passato, sì, direi... Beh, un passato però... Però a livello così di passione lo faccio ancora. Beh, io da ragazzino giocavo a pallanuoto, ho giocato tanti anni in Serie A, mi è rimasta la passione del nuoto, degli sport di resistenza, e 3 anni fa ho fatto anche un Ironman, però non ecco, vorrei... Forse spieghiamo rapidamente cos'è l'Ironman. Che poi la gente pensasse, diceva, ma questo qua quando è che lavora? Non lavora mai. Lei però mi ha chiesto di parlare così a largo raggio delle mie passioni, quindi io lo dico senza problemi. Un Ironman è una gara di resistenza, è un triathlon, per cui vengono fatti 3 sport. Si parte dal nuoto, e nella distanza Ironman il nuoto sono 3,8 km in acque libere, quindi ci vuole o il mare o il lago a seconda delle situazioni, e poi si fa la bicicletta e sono 180 km, non sono noccioline infatti, e poi di corsa molla la bici e fai la maratona. La maratona di 40 km, 42. 42 km regolari. E alla fine? E alla fine sei soddisfatto, molto stanco, però se hai fatto il tuo lavoro di allenamento lo riesci a fare senza gravi problemi. Ogni Ironman che viene organizzato nel mondo, e oggi, al giorno d'oggi, è un, direi, quasi una moda, ce n'è uno quasi tutti i Dove mesi. Dove ha fatto l'ultimo? Io ne ho fatti 2 soltanto, però uno in Galles e uno a Cozumel, Messico, l'isola di Cozumel. Molto più caldo del Galles. Molto più caldo, indubbiamente. Beh, anche un ambiente certamente molto, molto bello dal punto di vista naturalistico. Sì, molto bello. E in Galles era settembre, ma sembrava dicembre. C'era la pioggia, però il vento, ma è stata un'esperienza molto, molto forte che mi rimarrà dentro tutta la vita. Quindi correre è bello in fondo, correre è bello anche nella vita. A correre lo vediamo tutti i giorni, abbiamo tantissimi manager, tantissime persone di business che lo fanno, anche andare in bicicletta, perché comunque dopo ti senti meglio, hai la possibilità di scaricare. Ecco, siamo anche alla fine dell'anno, vediamo un po' indietro, questo 2014 non è stato un anno poi esaltante, torniamo magari a parlare con la sua giacca di banchiere, come vede il 2015? 2015 io lo vedo da un punto di vista di mercati un po' più, direi, con ottimismo sul fronte del recupero dell'economia europea. Credo che tutte queste situazioni che sono state messe in piedi dalla Banca Centrale e anche in qualche modo la recente forza del dollaro e quindi debolezza dell'euro possa aiutare un pochino l'economia europea. Economia europea che, ripeto, ormai nelle aspettative di tutti, compresi gli investitori, ma anche della gente, è ormai data per spacciata in modo definitivo, mentre ancora grandi risorse. Ha grandi risorse e quindi io da un punto di vista di così sono costruttivo sull'anno prossimo per quello che riguarda i mercati azionari europei in particolare. Quindi un piccolo consiglio senza esporsi troppo, però un po' più di azioni, un po' meno di obbligazioni forse per l'investitore italiano potrebbe essere utile. Sì, non mi aspetto dei disastri sulle obbligazioni, però è chiaro che avendo ridotto lo spread già tantissimo, avendo il mercato fatto salire i corsi delle obbligazioni societarie ormai da 3, 4, 5 anni, ci sarà e comunque continuerà a esserci una ricerca di rendimento, di yield, e quindi non mi aspetto che le obbligazioni improvvisamente vengano vendute da tutti. Però ricordiamoci che in passato, nel momento in cui c'è un recupero dell'economia, chiaramente i primi anni si può convivere con dei tassi leggermente più alti o stabili, però dei mercati azionari che scontano un recupero maggiore. Ecco, con questa prospettiva ci fermiamo qui, anche per non invadere lo spazio Deborah Rosciani o Sebastiano Barisoni con i loro programmi su Radio 24. Grazie Stefano Rossi di essere stato con noi. Grazie mille. Di essere stato con noi questa sera. Stefano Rossi, amministratore delegato della banca Rothschild in Italia. Abbiamo parlato di economia, abbiamo parlato di prospettiva, abbiamo parlato anche di corsa e di musica, e quindi speriamo di non avervi innanzitutto annoiato. Ringraziamo anche Peter Bescapè in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e per quanto resta, buona domenica.